siamo a produzione. Come dice mio padre, non comandiamo, dice. La radio come sta uscendo? Che ho aumentato anche un po' i watt. Bene, bene, bene. Sono riuscito a toglierne quasi 15 watt modulati. Andà bene, Meda. Mi sa che non c'è solo fatto tanto. No. Perché mi è sembrato di aver sbagliato prima, girato da sotto qui, controllando il suo cavo di frequenza, base frequenza di segnale. Ma io ti sento bene. No, che abbia toccato qualcosa sulle bande laterali, magari qualche altro trimmer, boh. Era sotto, sono al contrario, perché lo stavo regolando piazzato, capito, da sotto. Invece prima ce l'avevo fatto rovesciato a faccia in su. Io ho capito, ma lo pigli le sigarette qua. Allora, prima di prendere le sigarette. E Claudio, ti sei sentito? Come? Claudio, ti sei sentito? No, no, ancora no. Io ho acceso pochi minuti fa. Come ha aumentato il vanta anche la banchetta, sono state quasi a fondo scala, ma non parlo. Diventa più che una pietra. È Marcolino. Hola. Attenzione, Condor. Sto cercando anche quello della modulazione, ma non so quale sia il tema della modulazione. Devo chiedere a, come si chiama, l'amico di Claudio. ALC c'è scritto, che vuol dire automatici, Lever Control. Ne hanno letto di cose, ma quello non lo ricordo. Sei sicuro? No, lo posso prendere un appunto? Eia, ALC. ALC. Ma aspetta che non dico, basta solo quello, oppure viene a regolare altre cose. Quello è. Adesso lo scrivo, là. ALC, L di Livorno, giusto? Sì, Alfa, Lima. Lima. Como. Carlina, ok. Modulazione. Dovrebbe aumentare la... anche i picchi dei positivi. Eia. Adesso come ce l'ho il picchi io? Perché una volta sto levando il watt e dice potrebbero uscire picchi negativi. Non vedo picchi di nessun genere. Prova a attenuarmi un po' il segnale dell'aria abbastanza, vedi, se vedi, le vedi meglio. Prova, ma domani non c'è picchi piatto, né in effetti, vediamo. Positivi. Va bene, anche tu sei positivo. La cosa l'abbiamo fatta, vuol dire, va bene il segnale. Cappa. Oggi hai fatto segnale di fumo. Vai. E poi fra, c'è una mappa lì. Cos'è questo segnale? Segnale di fumo. Ma ho aumentato un po' il segnale. Oh, ci è riuscito. Ho aumentato questo VR1. Però è singolo per AM/FM. Per la banda laterale ho dovuto cercare un altro. Che era a fianco, possiamo praticamente vicini paralleli. Sì, vabbè. L'importante è che hai tirato su quello della M adesso. Sì, adesso ti ho portato a 9. Caspita, un segnalone. Prima mi sembra che mi arrivava il 5, va bene, è modulato a 7. Di due. Mi poccate sono entrato. Devo portare la macchina. Ferrotteria, lui ci sia bene, Roberto. Ma sono rientrato. Ma la tua o quella della ditta? No, no, la mia, quella piccola, però la 600, non l'Alfa. Tanto hai fatto perché? No, l'ho comprata così, con lo sportellone ammaccato, capito? E quindi l'ho portata da Roberto oggi, ho appuntamento e gliel'ho lasciata. Ma allora la prossima settimana, non lo so. E c'è la bici? Non c'ho la moto, sto andando a lavorare in moto. Vedi, ci sta bene anche in moto. Tranquillo, mattina giù bottino leggero estivo, giusto per avere l'umidità, perché esco un bel pezzo, ho capito. Vuoi entrare a maniche corte, Ehi, a me fa vinto, riprendi. Cappa, cosa riprendo? Vedo che si così, cappa, tutta, faccio pure la ragogna. Di nuovo disturbato, stai? Me ne è venuta la figlia, l'ex moglie di Tonino, e mi stavo disturbando gli che si stavano guardando la televisione. Se me ne venite uno di caso vi denuncio, perché io soffro di ansia. Se venite qua vi denuncio per stalking. Non ci venite più e cambiatevi l'antenna, ridico. Ah, ridico, mette a muso duro. Ma fa la tariffa. cioè non possono stare a romperti le scatole così e li porta, capito? La colpa è loro, non è la tua, tu sei a posto. Certo, mi viene anche pure a me. Io le trovo di parlo, non ti pare me, cioè io non ho detto una mano, non ho capito. Ma non è già molto allora. Bene va così. Bene va. Sì. Alla grande. Adesso basta, cazzo. E cos'è? 9 più 20. Vedi che aumenta. No. 9 più 30 qua. Quindi secondo te dovrei aumentarlo ancora questo segnale forse? Un mi sembra troppo basso, fra, non lo so. Ma tu ce l'hai quel BV 131? Là. Che te lo compro io. No, quello del DAC, quello non lo do, ma poi ce ne ha uno. Antonio, se lo vuoi, glielo chiedo, me lo faccio portare. No. L'ha comparato, l'ha operato pochissime volte, capite? 50 euro lo vorrebbe. Nuovo. Ah, io ho fatto la lata, le do io le 50 euro in fretta. Dì chi è parte, non lo dica a me. Non c'è nel problema, lo pago io, non c'è il problema. Devo telefonare, direi portarlo. Cappa, tanto a me per fare l'ispezione di 213 al maggio. Sì, mi ha mancato 213, se no mi faccio via pronti io già. Non è un problema. Aspetta che mi sta facendo. Cosa? Che cosa, capo? E io ho detto, Natalino già ne ha capo, aveva comprato minimo 15 metri in più, capito? Ne sono andato avanzato, nuovo, le vie le virate, se vado di spettone, e riuscivo a blu lineare. Adesso ha attaccato qualcosa perché ha aumentato. Ho tentato a sollevare il baracchino, quel baracchino va da 0 a 40 watt. Ah, solo il baracchino. E questo l'ho portato mi da 6-7 watt, l'ho portato a 15 modulato. E 6-9 con picchi positivi a 9-5. È buono quindi? Sì, alla grande. Adesso lo stiamo stato pronto, se scalda, boh. Sì, se scalda, i funghi se ne ha la leva, ne ha tanto. Ma non si bruciano i finali? Ah no, già si brucia. Cosa vuoi che scaldi? La 7 watt, 10 watt, cosa vuoi che scaldi? Non è dubbio, praticamente sta andando con 15 modulati. Non fa niente. Ma cosa c'ha? Dissipatori. Ma è giunta a farmi rivolgere un visio, come? Ma giusto, c'è un basso l'antenna, chi mi chiama di carabinieri. Aspetta che metto con questo e vedrai cosa rivolzia io, vai. Già adesso è successo. Come hai aumentato? Sono una cosa allucinante. Cioè tutto nuovo, cavo, antenna, baracchino, tutto nuovo. Tutto in ordine, stazionale è zero, chi più imbecille va, un'antenna vecchia, che un palacqua, cioè. Un'antenna vecchia tutta a massa, boh, ma come mai? La quella anche cambiare, ma così. Si è offerto a cambiargliela e non vuoi toccarla, ma la bella di Luci, ma lo c'è voi. Ce n'è gente esaurita, un bacione. No, questo comunque non è anticipatore, ce l'ha l'altro, quello che ho messo in macchina. Controlla se scalda, ogni tanto metti la mano sopra il tappo, vabbè. Sono attaccati dietro la piastra in alluminio, là. Ma la ventolina non si può mettere con le piccoline. Si potrebbe anche mettere, poi se scalda, sì. Però adesso è un po' tipico, un po' deve scaldare, no? Beh, certo che sì, è chiaro che deve scaldare. Dovrebbe avere due finali, se non sbaglio, due attaccate a quella pasta di silicone, come si chiama. No, ma che baracchino è questo? Questo è Samurai. E già funziona bene. Un po' più forte, un po' più basso del radio, questo dell'altro che avevo prima. È 5 perfetta la radio. Radio normale, senza amplificata, però va bene. È il microfono amplificato, però. Cos'è? MV più 4. Ma uno Shure, da tavolo. E beh, quanto ce l'hai? C'è la manetta. Manetta, mica che è una manetta lo stesso. Deve essere un po', come si dice, la trottata, mi deve aumentare la modulazione. Perché mi accorgo che l'altro apparato, la lancetta sbatte un po' quando ho fatto, invece con questo si muove poco, deve essere un po' chiuso. Sicuramente c'è la ricetta, non sarà più chiusa rispetto all'altro. Però chiara la modulazione, non è brutta già va bene. Ah, no, come il microfono, cioè penso che sia un ottimo microfono. E voi, uscivo un ottimo microfono, sì, è che è un bel ragione, a me non piace, è troppo grande. Troppo, è proprio da tavolo. adesso lo faccio io. Mi ha bruciato il microfono, non ha più funzionato. Vedete, ti va, dicevo, la bocca. Ma la buona, metti, ha fatto il computer, non sa neanche voi, c'è un po' una cazzo. Ma io ho il carne più due da tavolo. Bellissimo, non lo so. E poi c'ho il carne più tre. C'ho il più quattro, il più cinque, gli anni metto. Ma no, non li uso sul tenente armato, solo il più due da tavolo è attaccato alla linea alle piatte, la linea valvolare che c'è, è attaccato lì, capito? Però gli altri no, non li uso, uso sempre questa qua, e basta. Oh, io ho solo questa uso, invece questa me hanno avuto anche il... dov'era, non me la metto. Il più quattro cos'era? Ma cosa faccio? Li chiamo i carabinieri o vado a denunciare domani per turchi? Vabbè, ma ne rompito di coglioni. Ma i carabinieri, fai 115, cioè, fai 115, 115, 112. Dice, guarda, io c'ho il mio vicino di casa che mi sta rompendo le scatole, viene a minacciarmi qui e là. Se vi potete avvicinare, per favore, capito? Dai, si chiama lì, chiami. Ah, li chiamo. 110, 110, li chiami, fai 110, li chiami, ti presenti, gli dici chi sei, no, il cognome, niente, eccetera, io sono qua, c'è il mio vicino che ogni tanto viene e mi minaccia, non so che cosa vuole, senza dirle baracchino o non baracchino, e li fai venire lì, capito? Viene a voce, mi minaccia, se mi potete avvicinare per favore, perché io ho le scatole piene, capito? Soffro di cuore, e li usci. Ma fai il 112 e li chiami, vedrai nome, cognome e indirizzo, e gli dici che il tuo vicino di casa ti sta molestando, se per favore si possono avvicinare. Vai, vai, che mi metto un ascolto a vedere se vengono. Guarda, niente, niente. Ma non si può, cioè non puoi mettere la voce alla strada, non si può così, dica così, boh. Compagno del Valvo, ne ha di compagno del Valvo, a tirare il collo. Allora. tutti, e questa gran casa si è rivenduta, è rimasto giovantelli. Gesù, mio casino, infatti, io ci avevo sempre sotto casa, per carità. E vabbè, mettetevi. Siamo lì. Io ci sono rimattore dal 93, dal 1993 ho preso la patente. Figura di tu, sono arrivato a Sassari da Porto Torres nell'84, quindi fate un conto, dall'85 sino a 90-91 era una lotta continua. Sì, sì, tu i 30 anni fa. Oh cla, ma non converrebbe andare domani in un'ora dell'ufficio per fare la denuncia? Oh Natali, tu adesso chiedi l'intervento, ok, tu chiedi adesso l'intervento, ti ho detto. Va bene, loro vengono lì e poi ti diranno, ok, venga domani in ufficio a fare la denuncia, tanto andano da Edoli e dici, lei perché sta comportando così, cosa c'è? Cioè, ti sta minacciando Natali, chiamali, ok, e loro vengono. Vedo io a cercare cagiotto. Ma io dici che tu sei in regola, tu di così non puoi fare. Gli hai cercato anche offerto, ti dici, ma l'antenna, sta ancora più di così. Infatti, mi sono offerto io a piazzare l'antenna, io soffro di cuore. E ma fallo, barone, così, fai 112 e chiedi l'intervento della pattuglia dei carabinieri. Ok, mi presenti, nome, cognome, diritto, dici che il tuo vicino di casa ti sta molestando. Se per favore si possono avvicinare, ok? Poi loro quando sono lì ti diranno vuole esporre denuncia? Sì, allora venga domani mattina in ufficio. E io chiedo, aspetta un attimo che li chiamo. Chiamali che vengono subito, qui si ribassa la manicomia, Edo. Mi tocca di tutti i dubbi a chiamare Edo, non lo chiami tu. No, ma con l'alzanza. Fra, non se ne può più. Quindi la Madonna, tutti lì, ma te si gloria, ma lo deve fare. Non ho capito. Ascolta, mi stavo dicendo, Anna, dove siete andati ieri? Qual è quel posto? Ieri siamo andati quello che c'è vicino alla rotonda, entrando da... da Fertiglia, dai. Entrando da Fertiglia vicino alla rotonda? Ma non siete andati al Paguro? No, entrando all'Alghero, poi ho la stanza, dico, è l'incrocio con Fertiglia, la rotatoria, l'ultima che c'è. Entri all'Alghero, dai. E c'è di fronte quello del Corano, Maronia. Ah, ho capito, sì. Adesso vediamo come sono messo sto fine settimana, fra. E poi andremo, chiudiamo io sabato e domenica, non potevo uscire, già gli ho detto Anna, capito mi hai? Attualmente sono preoccupata, giù telefonato due voci e mi stacca la comunicazione. Comunque se mi richiama a lui. Quando mi chiama da Gurudà, se ci vedo. Non arrivo più presto, mi scattano, se non si mette, non si sistema le pompe di calore, i condizionatori d'aria c'è troppo caldo. Natali, se ti hai inserito la comunicazione nella selettiva, ti chiamano loro, ok? Ti chiamano loro, tranquillo. Le dai il nome, il cognome e indirizzo. E dici, per cortesia rimandare una pattuglia perché il tuo vicino di casa ti sta molestando, punto. Loro vengono e poi si acconta la cosa. Due volte gliel'ho fatto, prima che non si fa. Perché sennò se lui non vede che ti muovi tu, e tu continua a fare, capito, un galletto. No, il galletto lui non lo fa, perché adesso mi ha rotto le scatole, te l'ho detto che glielo facevo. Esatto, adesso quando ti chiamano tutti i presenti, gli spieghi la motivazione della chiamata, dici se per cortesia possono mandare una pattuglia a far calmare questo signore. A porta bravo. Sì. No, c'ho l'altro, le VHF accese, ogni tanto parte lo squarcio. No, ma sembra che ti avevi mollato di segnare il corpo, non è che avevi mollato tu. No, mollato io. Ho capito fra dove siete andati, sì. Beh, siete stati bene? Sì. Poi ieri siamo andati presto, quindi ci ha servito subito. No, ma niente di eccezionale, però si sta bene. Quando te dico io andiamo a trovare a Coso lì a Alex ragazzi mio nipote al Paguro e a Simania Bogovesci. Ma a Fertiglia? Sì, a Ia. Lei ci ha mangiato l'anno scorso, mi sembra, con degli amici con Mauro. Ci mangiamo bene. Quello mi tratta bene perché ci conosciamo, capito? Ho il telefono, passiamo un attimino, calamari che fanno lì, è allucinante. Ma anche piatti con botti? Allora, vai fritto, parte fritto, ma la pizza è buonissima, ma buona però, Sì, no, io la pizza era buona io la Diana, perché non ce la faceva mangiare, allora ce la sono mano io. Beh, tu non è che ti perdi in chiacchiere. Grazie a Dio. In dirubore non c'è già, però... Dai, ti faccio tutto, ti vivo, ti faccio. Cacci di buona forchetta. Già mi difendo, allora, non come prima, ma... Comunque, già, l'altro giorno quando ero allo sfuggito di un compleanno lì, dopo oggi l'ho andato verso... verso Nusi. Ma quelli sono i punti più buoni, capito? Anch'io quando sono così in campagna mangio di più di mangiare in pizzeria, mangio una pizza o cose eccetera, capito? Oppure se no possiamo andare a Campanetta, la IFA. Non lo conosco, IFA. Fa degli mizzi, fa le pizze che non ci stanno nel piatto, o fa. Non ci stanno nel piatto, sembrano pizze giganti, ma condite, condite alla grande. Al telefono ci facciamo prenotare un tavolo e andiamo lì a Campanetta, dove c'è il tiro al volo. No, non lo conosco. No, anche lì la pizza era grande, quella di Anna era enorme, non ci stava nel piatto, lo stesso, perché non ce la faceva, non ce l'ha fatta mangiarsela. E poi ne parlano bene anche di quello che ci sono anche stato, ma Bancali anche, infatti è sempre pieno. Ah, da Piero, sì, amico della ragazza di Daria, quello lì. A Bancali, sì, ci ho mangiato, sempre pieno anche quello. L'altro giorno proprio era intagliato di macchine, fuori, dentro, davanti alla chiesa. Cazzo di mano non ci passa nemmeno, che dovevo andare a un altro compleanno di un'amica di Anna. E quindi dovevo passare da lì. Oh, no, mi ha telefonato nessuno, a me. Sì, aspetta, non ce l'hanno solo la tua telefonata, già ti chiamano. C'è il Pannovetta, hanno detto che ti chiamano loro? No, me l'ha messo inoccupato il telefono, l'ho telefonato due volte, l'ho fatto il 112. Mi rubano i cazzi inoccupati. Sì, ma strano. Ma dal telefono di casa stai provando, dal telefonino? Da quello di casa. Prova dal telefonino. Però c'è il coso della DSL, siccome sono numeri, come si dice, non a pagamento, ora se te lo faccio fare a casa, prova dal telefonino. Ma mi sembra strano, dovrebbe andare lo stesso. Però adesso provo al telefonino, vediamo. Ormai sono occupati davvero, ma non penso che abbiano solo una linea, avranno un centralino. È un centralino, ho visto io. Apparecchiature ne ho più io. Adesso si è aumentato anche il segnale, adesso c'è picchi dove 5, non lo parli. E sempre 20 watt c'ho io, 20 watt con picchi a 40, 50, stanno con 44. Ormai mi sono abituato lì, tu guarda 35 watt, prima che lo faccia andare un po'. L'altro giorno stavano vendendo un po' di 100, 640 sulle 300 euro. E poi l'altro superiore non mi ricordo, mi sembra 50 euro in più. Dopo il 140 cosa c'è? Sì, 80. No, un'altra sigla aveva. Non lo so. Più piccolo il 140, sì, 80, 430 e 440. Questo è 440 allora. 300 euro, buono. 440, 300 euro, se è buono, se è a posto. Va bene. No, 140 era 300. Quello superiore era... Mi ricordo 50 euro in più su quelle su Facebook, ci sono le, come si dice, dove vendono queste cose, tipo compro, vendo, roba così, non mercatino che c'è. No, non ci vado mai io, vedete, non lo so, fra, no, io non vendo niente. Io c'ho il 30 e il 44, 430 e 440, mi ritengo, perché sono dei gioielli. Sono nuovi, i miei tagli 8 e 2, se 80 e 140 li avevo venduti. E come frequenze? Qual è quello che copre tutte? Tutte e 4 sono 0,30, anzi se 80 è 0,50, c'è una banda in più. No, non era quello, era uno era 140 sicuro, l'altro era, mi sembra, quello superiore, che è tutto poco fa, il 4, non mi ricordo, come hai detto tu. Il 4,40. Il 4,40 forse era, sì. Oh, ehi. Hey. passato la polizia e la polizia mi ha detto andare a fare denuncia se ho ricevuto delle minacce a questo qui. Mi hanno passato la polizia. Sì, vabbè, ma dice, ma scusate, una pattuglia se in giro non la potete mandare a farci a farle dare una calmata a questo signore. Cosa devo fare io? Devo spararlo? Ah, vabbè, dai, no, non ti preoccupare. L'importante è che loro siano avvertiti. 103 ci siamo passati a questura. Okay. Ma si è avvicinato domani mattina. Ti avvicini questo domani mattina e lo diffidi, capito? E fa una bella diffida, così leggera leggera, no? E ci avvicini, ci starà lì. Infatti. No, me ne fate un capo. Io gli spiego tutto quanto a questi qui. Tu vai, glielo spieghi, portati la documentazione. Di fili, in modo che non ci avvicini più a casa tua, punto. Ha detto che me li chiamava lui il carabinieri. Quando vedi, guarda che chiama a dire la polizia. Ok, tu vuoi mandare, non andate di un piegio. Ah, ho veramente detto chiamali, gli ho detto, io sono in regola, detto, non hai capito che sono in regola. Sì, datevi finiti, non posso vedere, ho preso, a posto, i miei. Gatto, che gente fra. Ma è stato proprio anche la moglie, eh? E quante ne nasce a tutte e due, ma le moglie, capito? Come imbecille. Allora, ma facciamo scendere la Tinnari in macchina, fra. La Tinnari come è fatta a scendere? Sono fuori strada. Sì, vabbè, fuori strada, tu non fuori strada, non è una Landerofa, no? Fuori strada, amico. Scende, ma quattro volte motrici c'ha. Sì, c'è. No, no, quella che tu sei rimasto alla Suzuki. No, non c'è il RAV4. No, perché c'è ancora prima? Dopo il RAV4 ho avuto il Gran Vitara. E adesso cosa c'hai? Adesso è un Mitsubishi, un Pajero. Pajero, quello 2.5 intercooler? No, 3.2, 3.2. Tu mio mano non veda? Non lo fanno più grande, è neanche più piccolo, ormai è quello. Oh, ma buono, nuovo, seminuovo. Cioè, nuovo no, seminuovo. Là. E che colore è verde? Bianco, bianco. Ah, bello. Io l'ho avuto il Pajero, però 2005, per cura, capito? Quando la Perfugas, 2005, dice, turbo dice, quelli sono Caterpillar, eh? Sì, sì, no, no. Ma sotto, sino a giù siete arrivati? Fino alla piazzola, non l'ultima figurina, perché lì non ce la fai a girare, ma 20 metri prima dalla fine della salina bianca, che poi c'è solo la scarpata che te la fai a girare. Infatti, perché sotto poi stringe e non ce la fai a girare, sì, sì, sì. Va bene, avanti Natalino. Ehi, cosa va? Mi chiamava Riccardo, gli ho detto chiamali, io sono in regola, sono la giudizio. Oh, chiamali, se no ci vogliamo dire, chiamali. E fai su, gli ha telefonato prima io, e va domani ando in questura e porto una vetta di nuovo. E non c'è una diffida, così non si avvicina a casa tua. Se si avvicina, chiami direttamente la questura, capito? E vengono immediatamente perché c'è una denuncia. C'è un imbecille, ma mi ando mai, quattro iati giochi su un vicolo, ma dimmi tu, allora saremo imbecille. Avevo c'è l'antenna nuova, aveva tutto un impianto nuovo, e invece è proprio allucinante. Cosa è successo? Ditelo a me. Io mi sono offerto io di cambiargli l'antenna, di mettergli tutto a posto, l'impianto. Lui ha detto agita, e allora agitemo. Ah va, fa bisogna lì, e si mi rompe di cazzo, andando in questo, adesso ho 3 mesi di tempo per fare la denuncia. No, domani, infatti, domani ando. Ehi, Marcolino Combro, cosa è successo? E questo signore continua tutta la Iana a Natalino, allora si è rotto il Gamma Gigi, Natalino ha chiamato 113, domani mattina vai a fare la denuncia. Per diffida. Ehi Natalie, però deve essere una cosa allucinante, mi. Non così. Lo stalking è una cosa continuata nel tempo per mesi o anni, prima che facciano qualcosa. Te capì? Aspetta, che c'è un pistolozzi qua, cos'è? Cos'è questo? Ah, nulla. Ebbè, avete visto che caldo boia oggi. Comunque sono andato, l'ho trovato subito questo meccanico, questo elettrauto, e gli ho fatto vedere la cosa, dice, e ha detto ci vuole il pezzo alla Opel, come dire, vanno a prendere. Infatti io sono andato all'Opel, l'ho preso, perché alla concorrenza non ce l'avevano quel pezzo. L'ho piazzato, fu vetri anteriori funzionanti, senza bisogno dell'elettrauto. Primo controllato, quando ho comprato il pezzo, primo ho controllato i fusibili erano tutti a posto, ho collegato il connettore, provato, vai di lusso. Come avevo detto io, basta mettere l'interruttore e dovrebbe essere a posto, capito? Vabbè, riprendi un attimo con Franco, con Attalino, vado a mangiare a Filippo, arrivo subito. Eia. Franco, mi ascolti? Sì, hai cambiato voce. Ehi, guarda, questo è uno microfono da tavolo, ZGMB+5. I toni sono molto alti, acuti. Molto acuti? Sì, qua è regolabile, l'ho messo a metà. Io tra cupo e acuto preferisco avere toni un po' acuti. Poi se è generico, meglio ancora, dai. Neutro devo essere. Deve essere la mia voce. A te sembrano acuti, così è. Tu sei un ratto a pignara, ecco cosa sì. È un lattone, diciamo, sinceramente chiara, limpida, senza frontoli. Qui si sente che è un po' spinta dalla pubblicazione. Eia, ce l'ho a 6. Ce l'ho solamente a 6. Capito Natalino, devi subire, devi schiattare Natalino. Schiattare devi tu che sei un gatto a pignara. Ascolta, e quando è che ti ha suonato la porta? Stasera? Mi ha preso a voce, mi ha minacciato. Avanti, riporto una bella denuncia domani. Ho già telefonato il carabiniere alla polizia. Ma ha minacciato come? Fisicamente o legalmente? Mi ha minacciato. E io soffro di cuore, secondo me deve venire un altro infarto di quella polizia. Riporto una diffida che si vede in grimoziale. Ma minacciato come? Tipo tidroncolossi o roba del genere? Così, tipo così. Però lui se mi tronca le ossa, poi dopo si prende i suoi, come dire, insomma, nei ciclossi truncati, che non sa ma quando gli arrivi nei colpi. A chi mi tocca farà e tu no? Cesso. Sono quelli della serie Uomini Duri, mi crede si risolva tutto, già lo sa, sì, che tu sei ti puoi difendere, sì, che non mi conviene tanto girare le balle, siamo mi veniamo in 10, in 20, CB, e lo picchiamo in 10. Ha capito il Franco, Natalino lo stanno assillando. Ogni volta che entra a parlare, mi bussano la porta, mi stai disturbando, lo stanno anche minacciando fisicamente, capito? Hanno rifiutato l'aiuto per mettere un'antenna nuova a questi. Niente, non vogliono l'aiuto, ma non vogliono neanche che lui moduli, capito? No, Franco, mi scappa il nome. Sei Franco, Francesco, uguale. Io intanto parlo, poi vengono a bussarmi la porta, io ho chiamato già i carabinieri, non avete capito che domani ti vengono. Oh, Natalino, come ti lo vedi, lo tratta, lì. E che mi metta le mani addosso, quanto mi ne rido. Non sa manco quando arrivi nei ricordi, ti ricordo il caso sarà così ancora un avviso. Tu devi stare calmo, ma questo grosso è... Più che grosso è grasso, però lo faccio dimagrire. Ma che ti ricordo cazzo di pugni e 40 vasi da faccia, cazzo, che io dico, non so, e che altro treno me ne brincate, no? Oia. Ogni giorno ce n'è una, quindi vabbè, Claudio sta andando a mangiare al coso, io fra poco lo mangio. Ero bello coricato, un caldo stamattina, Atali, mamma mia. Prima sono andato da questo elettrauto e sembra gentile, però giustamente ha detto serve il pezzo originale della Opel. E piuttosto che andare lui e farmi pagare diciamo il disturbo, ha detto vai la Opel. il pezzo originale, poi dice se c'è qualcosa di elettrico da controllare, tipo le bruciate, dice quello lo faccio io, ma sono andato prima dietro la piazzetta dove c'è un ricambista che vende, vabbè, più che altro della Opel, però non ha questi pezzi qua, di solito ha gli specchietti, il vetrino dello specchietto, sai, può avere queste minuterie, però quel pezzolino costava 112 euro, ce l'hanno lasciato 100 euro. Ma era pulsantiera? Sì, tutta la pulsantiera completa, che comanda i vetri di destra, i vetri di sinistra e la chiusura delle sicure, diciamo. Praticamente lo attacchi con un connettore ed è pronto. Io prima ho controllato il fusibile, erano tutti a posto. E quindi sì, poi c'è un pezzo di bracciolo, è tutt'uno, dai, sì, tutta pulsantiera completa, dai. E purtroppo i prezzi sono quelli, perché sai cos'è? Se vai allo sfascia carrozze, quelli mica ti vendono il pezzettino, loro ti vogliono vendere tutta l'intera portiera. Non è detto, no, non è detto, a volte già smontano il pezzo. Eia, però sai cos'è, andare lì, lo so com'è, si buriano, insomma. Insomma, l'ho voluto nuovo, dai, almeno è nuovo e dura altri 20 anni. E così per la revisione siamo a posto, la macchina c'ha tutto l'impianto elettrico a posto, luci, controluci, frecce, vetri elettrici, e una paranoia era mia, fra, che dovevi aprire la portiera ogni volta per chiedere al benzinaio, poi se c'è un posto di blocco dovevo aprire la portiera. Comunque posti di blocco non li trovo da secoli, prima li punti, in certi punti della città, ottava, trovo sempre la stradale, o i carabinieri, non vedo più controlli, non vedo più posti di blocco, non ne vedo più da nessuna parte, non so cosa sta succedendo. Prendi anche la tana in pochi, mi Ehi, pochi, mal pagati e con poca benzina. E quindi una volta era d'obbligo mi trovare il carabiniere o la stradale agli punti, adesso nulla, sembra che siano spariti. Tanto io mi sono sempre in regola, la cintura l'uso sempre, non bevo guidando, non faccio fesserie, dai, perché le multe costano e soldi ce ne sono pochi. Sì, a volte io quando sono a rischio faccio guidare mia moglie, almeno sono tranquillo. Eia, invece Natalino mi era ubriaco l'altro giorno, ha guidato lo stesso, vero Natalì, al compleanno, Natalì. Non ero ubriaco, anche se il codice della strada dice stato di ebbrezza, ero in stato di ebbrezza, però non ero ubriaco. Ehi, lo so, quello si dice, come dire, ubriaco nel frascico, mi. Eri solo allegro, dai. E beh, al compleanno si mangia, si beve. E il dolce c'era. Però ero tranquillo. Se mi trovavano magari mi facevano buffare, può darsi che trovavano il tasso alcolico alterato. E io ho detto, ma al compleanno c'era una torta, un dolce, c'era. E c'era una carrettata di roba da mangiare. Cazzo, gruppo d'occhio. Cazzo, tutta roba rossa, abbiamo arrossito. Cazzo, va, abbiamo fatto a beffa. Sì, anche i matrimoni sono belli, perché poi c'è un bel di roba da mangiare. Mamma mia. Una volta un matrimonio, siccome passavano sempre cameriere diverse, mi mangiavo il dolce, poi passava l'altra, così non ho avuto il dolce, è un dolce anche quella, poi passava l'altra, si può avere il dolce? Sì, sì, subito. Mi sono mangiato 4 o 5 dolci, perché chiedevo ogni cameriera diversa. Cazzo di auto. Adesso contavo c'era la fila dei piatti, così. Sì, io li nascondevo nella sedia che c'era aderente al tavolo. Ne ho mangiato, mi pare fossero fette di torta, cos'era. Ne ho mangiato 4 o 5. No, io non sono per i dolci, però l'altro giorno c'era un compleanno dei 50 anni della vita di mia moglie. E c'era questo maglianetto che era la fine del mondo, eh. mangiato caldo, una volta ho mangiato porcetto freddo, faceva schifo, faceva proprio schifo, mangiato bello caldo col grasso colante mi. Anzi, il porcetto si può mangiare, l'agnello che è pesante e freddo. Attenzione sul canale 10, Brecco. Sì. Buonasera a tutti, Gianello più room. Sì, sono cara, sì, qua. Mi sta rompendo tutto quanto, mi Gianni, parla bravo. Chi è? Io sono. Dove sei? A casa sono, dove vuoi che sia. Carino, io preparati che ce ne andiamo a fare. Io sono già pronto, sono già. Andiamo al limite a prendere la ratapignara pure, cazzo, così almeno la posso sculacciare. Allora sai che ne è venuto a tornare quello là, cazzo, e mi ha minacciato. Domani va, te lo denuncio. Ciao, ti cosa sta di? Ehi, che mi rubo via video, tu che l'antenna mi ha vazia a cavà, chi che d'altro, ma poi si l'ha sentito mia moglie dal tabacchino che è andata a comprare le sigarette e a portare il cane, no? E l'ha sentito lì, ne subito giunta, gatto, è lui che sta a bucci era. Dice, avvi la me, ma vedi la televisione, l'ha giusto già, ma di l'antenna, l'ha giusto. Ha detto, ti chiamo i carabinieri, chiama, io sono in regola, giudizio. Oh, yeah. Procaridate. Gianni, chi è che non c'è passato? Tutti ci siamo passati, chi più chi meno. Chi è per aggiungere? Si diceva che ho 3 mesi di tempo per fargli la vita. E infatti no, ancora non ha compreso. E se mi mette le mani addosso ti ricudo il casu sa gatto che lo dà come si in terra. Yeah. È solo che poi dalla ragione ci faccia al tosto, capito? Quello è. E l'altro giorno lo stesso, quando è arrivato quel tipo di notte che hanno arrestato, che stava facendo casino, gli hanno chiesto a quello della pizzeria se l'aveva messo le mani addosso, e lui ha detto di no. Ha detto, meno male, se no dovevamo portare via anche a lì. Non è cazzo che quando fa di così, rimane le mani in alto e così. Ma ascolta, allora io mi devo far picchiare secondo te, se mi mette le mani addosso, la ciappa mi giangurone in terra la ciappa. Ma ha compreso? È così. Magari esce di su San Natalino mi. Ho fatto qualcosa come 4 anni di karate, non lo so qui come ti vado a punire le mani in alto. Non vedi se fai solo la vita, cazzo, arriva in 40 gradi di faccia. Ma io per un'arena, MMA. Scendi, come fai? Sto scendendo, però alle 8 dobbiamo essere qua, se no mi porto le pastiglie. Ma te l'ho preso con una bottiglietta d'acqua così non ti rompo. Eia. Io devo mangiare qui, da qua non esco, dai. Anzi, va giù fammi. E allora già. Al mare stavi andando, non me lo ricordo, se te l'ho detto ieri, non so cosa mi hai risposto. Sto sentendo. Te l'ho detto che sono andato di mattina, tu sei andato di sera, mi hai detto. Ma invece sei diventato, ma sai Marciano? Ehi, mi sa di sì. È vero. Oggi non sono andato troppo caldo già, a farmi venire un infarto, non ci scendo. Beh certo. Chi è che ha fatto MMA? No, lo dico, chiudiamo in un'arena. Eia, Eugenio fa MMA. Ti mandiamo lui. Aiuto. Mi glielo detto Natalino, se hai bisogno scendiamo in 10 a vedere se abbassa la cresta quest'uomo. Capito, di chi si. Poi lì c'è stati vecchia, no? Sono tutti uomini duri, no? Credono che con la violenza si risolva tutto, non è così, no? Ha ragione, Paolo, ha ragione. A te ti picchiano, Claudio, ti pone di sotto. E ancora non l'ho trovato, speriamo che lo trovi. Capito, a voci messe era. Avvero, ma vedi la televisione. Avvero, per ragioni che. Avvero. Già. Ma sì, sotto casa di Natalino. Chi ha? E' abbassa la potenza, allora, disturbi. Non disturbo. L'antenna mia non disturba perché è lontana. No, è una battuta. Scappa, e poi che venga di cosa a me. Cavolo, l'antenna di due metri per scudo a fianco. Oh, comunque arrivi bene qua, Abiti tu. Diceva palato giallo. Infatti si è passato anche qua davanti, boh, perché il segnale era forte. sono sceso da via Montello lì. Sì, sì, sei passato qua allora. Vai. Vabbè, ma il mio segnale è sempre forte, si sente da tutte le parti. Vai. Costante, che antenna c'hai? Turbo 2001. Quanto è alta? Sì. E ho capito. Guarda quanto è lui, eh. 2 metri. Allora. No, c'è bene, c'è bene. Guardi signore, che c'è, già ne ho più rumori lì, che sta disturbando la televisione. Sì, anche a te sente perché? E allora, non mi sento a me, c'è il baracchino, c'è. Quelli che ti turba non ne hanno baracchino, no? Oh, è Natalino, che usavi l'ipotensiometri e disturba. Comunque ti ipotensiometri sempre. E vai, ratta pignala! Messo di l'ipotensiometri, ti vecchia di Jacob. Eia, e dove andate di bello? Facci un giro, ci beviamo una cosa, a casa torniamo, non è che si deve tirare a mezzanotte, ora una, no? Guardate voi. Io te l'ho detto se volevi venire. Ma sai cos'è? So per pranzare, dai. Sarà per un'altra volta. Prossima volta però ci mettiamo d'accordo, dai. Sì, vabbè. Vedi tu. Oh, poi quando volete andare a Polo Torres, a San Gavino, sono curioso di venire. Organizziamo e ci facciamo una bella cena. Lì di là, vi raggio. Ma chi è che paga? Beh, volendo possiamo scappare senza pagare, ma Natalino lo conoscono. Lo prendono subito? E anche Gianni lo conoscono. Gianni di più lo conoscono, che bazzica da quelle parti. Ehi, sai quanto esci bene Natalì? Dalla radio di Gianni. Cioè, anche Gianni esce bene. È una bella radio quella, è un bel apparato, esce veramente bene. E allora, adesso me lo faccio vendere, ti rompo i timpani ogni volta. Allontanati. Come allontanati? Siamo in viale Porto Torres. Ehi, non sei forte. Io non voglio subire nulla, questo è un baracchino omologato. Vabbè, l'ho modificato, che non ero abituato a vedere questi segnali. Ah, per quello, Sì. Beh, aggira, cambio. Vengo lì da te, guarda, 1, 2, 3, prova, così vediamo la differenza tra un segnale e l'altro. 9.5, radio 5, cara. E qui c'è anche un manche più forte, 9.10, 9.20 quasi. Aspetta che faccio il padrone, là. Senti come gira col padrone, cambio basso. Mi camionetti lì. Attenzione, binario 10, ascoltate il doppio run che chiama, cambio. Effetto elicottero. Ci vuole il rutto finale. Oh già, sai perché il 747 non si trova da nessun negozio online? Perché la Midland l'ha finito, proprio la Midland, dice sul sito non disponibile. Quindi se l'ha finito la Midland non lo può distribuire ai negozi, non lo sai, a meno che non lo tolgano dal catalogo, ma mi pare strano. Non si dice catalogo. Il catalogo. Cane, ditelo tu come si dice. Catalogo. E quindi o vai da Tonino, Natalì, ma non ti conviene o ti prendi il mio? E quello come il tuo mi prendo, da, tanto devo disturbare forte adesso. Abboggia la propagazione, mamma mia, io per quello oggi ho tolto tutto ho tolto, scarpetta, così non sono obbligato a parlare con loro, con la propagazione. E io ti faccio lo segnale, sei 35 qua. E questo è 4 watt, questo è il baracchino che vuole per un giro. Natalino Alfa 1, cambio via Gambia. Eugenio, dove sei? Il baracchino ti chiama. Tu è un caldo, raga. 26 gradi, diciamo, per il tuo gas. Oh, Claudio, sono stato mi da quello, con l'elettrauto. Sei molto cordiale. Sì, è bravo, bravo. Io oggi alle 3 ho portato la macchina da Roberto, che è carrozzeria. No, non ce la faccio più a lasciargliela, intanto le giornate sono belle, sono da lavorare in moto, ma la prossima settimana non la faccio, capito? Così, fatto, non ci penso più, mi tolgo il letto malato. Eia, non mi parlare dei denti perché io mi devo ricostruire un dente, che si si è spaccato in verticale. Che se sembro un tossico, sembro, con lente così. Io ho 58 anni e faccio tutti i denti miei, grazie a Dio, tutti. Ne manca uno, ma no, non mi dà nessun fastidio perché è proprio l'ultimo di tutti. In fondo, in fondo, in fondo. Però ce li ho tutti. In 10 mesi però bisogna andare, fare la pulizia, curarli, perché se non li curi, non c'è lo spazzolino con la motorino. Con la spatola rotante come Gondri, mentre fece bisogna usare buono, uso quella Z, alleluia, anche la cura dei denti è diventata cara, come nel bucassino di tutto poi si allentiera, vero ora? E allora, se chi vuole denti non ne ho più anche. Oh, in più ne hai, e allora così me lo metto quello che mi manca, tanto mi manca un giuro. Io dovrei toglierne almeno 3 o 4, guarda. No, no, no, io guarda, grazie a Dio, mamma mia. Proprio quello non ho mai avuto problemi. Se vado avanti così già va bene. Magari più avanti non agio qualcuno, capito? Gappa, gappa, dove siete già? Gianni. Sacra, dimmi. A Donato dove siete? Li punti. Li punti. E la Peppa, 9-10, sì. Esattamente di fronte a Sportland. 9-10. Andare. Eia, e tu li ascolti Marco? Sì, sì. Sportland, mi l'altro giorno ho cercato disperatamente le pinne della Cressy, le Clio gialle non ne portano, sono tutte blu, tutte azzurre. Ma se io ho la maschera gialla, il boccaglio giallo, perché non devo avere le pinne gialle come il tonno, è più visibile, per questioni di sicurezza le volevo gialle. E non si trovano più, non le fanno più. Come sai se non fai io gialle? Ma devono essere quelle che dico io, devono essere o le Clio della Cressy o le rondine della Cressy, rondinella mi pare si chiamano. Sono per snorkeling. Prima c'erano, adesso non le fanno più, ma ce l'ho da anni mi quelle, da anni e anni, a meno che non le ordini da internet, allora forse ci sono della misura e del colore, forse. Io non so che marca sia, però ce l'ho per gli anni, le uso a volte perché per non usare quelle da fondale, quelle che sono un po' impegnative. Ehi, ce l'ho anch'io quella da fondale, però ci vuole la scarpetta per quelle, ma sono troppo grandi, non vanno bene, dai. Ti ho detto, Cressy Clio oppure Cressy rondinella o rondine, non mi ricordo come si chiamano. Sono i modelli più economici, che però sono molto efficienti lo stesso. Sì, e poi non ti appesantisce molto il muscolo. Teia. Ah, ve l'avevo detto che ho provato quella maschera di Decathlon, quella maschera Triport, sembra una maschera antigas, non mi ha ispirato proprio per niente, non mi è piaciuta. Non sento la guarnizione che aderisce al viso. Ho lasciato perdere, mi sono risparmiato 30 euro e non ne ho preso. Guarda, non mi ricordo che c'era, perché ormai ce l'aveva, ma ne parlava non bene. Ma cioè non bene di più o male? Non ne parlava bene, non era contento. E infatti mi tengo la maschera che ho, ne ho una ancora sigillata, la perla della Cressy. Per adesso mi uso quella vecchia, quando si spacca la vecchia apro la confezione e uso la perla, e confezione col boccaglio pure mi. Invece da Sportland ho comprato un boccaglio sempre della Cressy color giallo, il mio colore preferito, perché sai passano gommoni, passano per farmi vedere anche dalla riva, capito? Devo essere visibile in acqua, non invisibile. No, se devo andare un po' di avere il palloncino. Sì, no, però dico, se sono, come si dice? Se io sono solo, se sono solo bagnante, non devo avere il palloncino, solo se vado a pescare devo avere il palloncino, giusto? No, ma se ti allarghi, se vai al lago devi avere il palloncino, se non sono ti vedono. Ecco, per quello è meglio avere pinne visibili. Comunque palloncini sì, c'ho anche quelli, non li uso da anni, pensa, ne ho due, uno più piccolo e uno più grande, insomma c'ho tutto, dai, anche più di quello che mi serva. Lo sapete che hanno ricommercializzato il polpone della Seat Sub, il polpone, quella molla, quello che usavano i ragazzini. Chi è che non l'ha avuto da piccolo? Io l'ho avuto. E io diciamo l'ho avuto un po' meno da ragazzino, dai. Allora, eravamo a Portoferro, no? C'era questo Sub che è entrato con muta, fucili lunghi 2 metri, 4.000 euro di attrezzatura minimo, non ha preso nulla, sono entrato io col fucile a molla, a giocattolo, ma proprio tanto per scacchiarmi, non è per il polpone, è della Francis Sub, ma è uguale al polpone, quello da 60 cm, passa una bella seppia sotto di me, punto, Steng, beccata, sono uscito seppia, lui ha detto, ma come l'hai preso? Un col fucile giocattolo, non è possibile, non è possibile. Lì era azzurro metallizzato, mi ricordo, però quando caricavi i pesci scappavano perché sentivano il rumore, e poi c'era è andata lì, sì, faceva sdlendendeng con quelle molle che aveva, faceva un rumoraccio, però certe volte no, ti passa la seppia sotto, lei è convinta di essere invisibile, tu punti, pum, presa, e quello non è possibile che tu l'abbia preso, ho detto, guarda, non c'ho altro, gli ho fatto vedere la roba, guarda, lo c'è nel vuoto, c'ho solo questo, gli ho regalata perché io non mangio quello che pesco, lì è andata lì. Una volta ho fatto strage di quelle seppie, è venuto Claudio, gli ho regalato, pensa a lui, mi dilla Claudio se non è vero. Sì, ci credo, non dico che non è vero, io ci credo. Sì, sono Gianni, e avevamo Gianni mia a pescare, qua, noi piccavamo i sempri. Andevamo o andavamo? Sì, e poi hanno visto il colore nero, cazzo, sono andati tutti lì a pescare. Eia, no, perché fra, mi è sembrato di sentire andevamo. Non mi piace sentire queste storpiature della lingua. Ma purtroppo sono molto, molto usate. Ehi, a Sassari si usa andevamo, mangevamo, telefonevamo. Cazzo, non è né sassarese né in italiano poi. No, è vero, è vero. Claudio, Claudio, sei andato a portare il cane, che ore sono? No, non è ora ancora. Ma no, era già rientrato, se non sbaglio. Attenzione, la pagina, cosa stavi dicendo, cambio? Avete parlato in due, vai Gianni. Come mi ascolti da qua? Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 più 10, pieno. Pagava, già va bene. Zona di Rioni, incrocio con Bibbio per Bancata. 9 per qui, 9 più 15 praticamente già. Bibbio per Bancali? Ah, buono, buono. E che baracchino vai? Cioè, 9 e 15, fuori mari. Come? Ho detto che baracchino c'hai così generoso. Vabbè, 9.10 era, il 3.009 col frequencimetro. Siamo un po' troppo generosi, questo è il segnale di Gianni, perché io, quando lui a volte fa quella zona lì, capito? Il segnale è quello, 9.5 sta arrivando col 4.40, ultimo segnale. E magari c'è un tunnel tra me e lui. Tunnel? Meglio il tunnel dell'io, che vedo l'ingresso del portatore. Qua lo segna. Io mi ricordo che qua il 9, il 9 è reale, l'avevo regolato come il Kenwood, uguale uguale, uno mi arrivava 9 col Kenwood e gli avevo regolato 9 qua, però i segnali bassi li falsa tutti, i segnali alti, boh, li devi interpretare, questi svinte non valgono nulla, dai. E infatti io li sto dando giusto, 9,5, come sia l'ingresso al Porto Torres, hai già superato il rettilineo, Gianni. Sei proprio all'ingresso di Porto Torres adesso? Sono arrivato quasi all'incrocio della cantonina, dell'anno. 9, Santiago 9, sul 4.40 sei Santiago 9, questo è giusto perché è stato tutto revisionato. Santiago 9. Già va bene, interessante che ti sentite. Vabbè, Claudio, grazie, anche a me adesso arriva 9. Ehi Marco, vabbè, ma quando qua era 9.5 ti hai dato 9.15, mi sembra un po' troppo fuori quello Smith, capito? Questo è preciso, e poi Gianni, ti ripeto, sempre ha avuto questi segnali, la sopra da dove arriva più forte, dalla, quando passa di Monterraggio, sopra Monterraggio è 9-10 abbondante, capito? Eia, aspetta che qua mi stanno facendo morire di fame, aspetta che mangio, dai. A dopo, un attimino. Magna, magna, vai, bra. Non mi puoi prendere la mano, è a te qua. No, io ho dato a mangiare a Filippo, c'era un bel frullato, capito? Frullato, ananas, carote, mele, io l'ho mischiato con le crocchette, ma è ancora l'inglese di molti B. Oh, mi piace. No, la frutta la mangia tutta, se la vera la mangia tutta, capito? Se vuoi mangiare le banane, Lucina, ci devono ancora approfittare, capito? Allora io ho il coso, il, come si chiama, il, la centrifuga, e tutto quello che avvanta dalla centrifuga glielo tutto messo nelle crocchette. Mi gioco con il gatto, adesso se ne accetta a mettere le mani, poi inizia a alzarsi e a girare che vorrà portarlo. Sì, vabbè, è tanto, adesso è sazio, adesso è sazio, già va bene. E poi comincia a entrare in funzione la digestione, la impressione deve scaricare. E allora, e adesso è fatto, lui mangia molta frutta, molta frutta e verdura, capito? Le crocchette sono di pesce, quindi gliele metto in mezzo dove fanno bene. Se noi lunedì c'è una visita medica, dove si tutto a posto, perché c'ha delle gare, capito? E il tessino sanitario deve essere a posto, controllano sia malattie sia patologie, capito? Una mostra, cosa c'è? Io una gara c'è all'istante. Io non lo so, io adesso lo porto la mamma e lo babbo. No, io basta che non te le faccio fare, a volte ci vado, ma quando è vicino, capito, se no lontano così non ci vado io. Sì, anche a me dipende, io questa macchina l'ho presa lì, ahorita quindi ogni tanto ci siano a fare dei controlli perché è di garanzia. Un po' mi pesa la verità. E fra tutti ne facciamo, perlomeno io ne faccio un bel. Oggi auguri lui, alle 7 ero già operativo. Operativo a Vidalba, però me non sa se sono uscito alle 6:10, capito? Facevo il trasporto dei fanghi, c'erano due persone di fanghi da portare via, quindi c'ero io lì per fare i formulari, tutto, e sono più piano di fanghi, li ho portati al laboratorio, poi sono tornato, sono sceso a Sassari, sono tornato a Vidalba, poi ho proseguito, insomma. A finire sempre alle 2, dai, quindi pronto a tutto, la visita di Manzano. Anch'io ero una settimana un po' pesante. Lontavo alle 10 da Alghero, rientravo, mangiavo, doccia, andando, alle 5 stavo già ripartendo per da Sassari per Alghero, alle 5, quindi mi andavo alle 4:20, 4:15. Prova già. Guarda, sì, da 8 a 9, 8 a 9 già. Non lo so, io l'ho perso di vista, non c'ho manco il numero di telefono qua. Non lo so perché mi aveva detto che aveva venduto tutto. In via Tre Sacchi lui c'è al circolo, in via Tre Sacchi, dove c'è la ferramenta con giatta lì. Prova a vedere se gli è rimasto qualcosa, a me mi aveva detto che si aveva venduto tutto, capito? Gava. E chi qua? Gavino, un poco Torres, c'è una bella ambulatazione. Bella roba, poi vabbè ha deciso di fare altre cose e quindi si è venuto tutto per non lasciarle ferme, capito? Poi c'è una bella radio. Lei non ho capito però il nome, chi era? Gavino di Porto Torres. Non mi dice nulla. E trova poco, qualche volta è così, capito? Però ti ripeto, una bella radio, un bel magnum. Bella roba, mi è servito tutto perché ha fatto altre scelte, diciamo, ha fatto altre cose e quindi si è avuto tutto per non tenerle ferme. Non so se c'era ancora 747, boh. Aveva nominativo anche? Sì, gioca. Boh, so che è stato quegli anni che noi non stavamo entrando, magari. Boh, non so, io ho cambiato il telefono e non c'ho manco il numero di telefono. Nulla. si difendeva abbastanza bene, però in certi punti non sentiva niente, capito? Qua a parte è dietro casa praticamente, quindi è coperta di brutto. Ma io l'avrei messa sul tetto dove c'è l'antenna TV, una piccolina, capito? Una piccolina, o ti compri una bombola nuova, un'antenna piccola, insomma, non sia grande, però toglierla da lì e metterla su, capito? Sì, secondo me dopo la basta anche un'antenna di macchina, è già migliore alla grande. Sì, antenna di macchina, qualcosa, ma toglierla da lì, perché è troppo chiusa. Quando tu la metti già sul tetto, attaccata con una staffettina all'antenna TV nello stesso palo, penso che migliori tantissimo. Sì, è la grande, così è molto più aperta. Sì, ma infatti, capito? L'antenna di macchina si è a posto, va bene, perché quelle antenne grandi non le vuoi mettere tu. No, io cazziamo una cosa del genere qua, non voglio fare la fine, te l'ho detto. Sì, vabbè, ma magari non disturbi tu. Ma te non stanno rompendo lo scatolo perché stai disturbando a questo imbecille. E chi lo sa, io questa che sto usando adesso praticamente separa solo il muro dal televisore di questa signora, perché c'era proprio di fronte a lei, di fronte al suo televisore. Però non si è mai lamentata, anche se attacco la scarpetta. Infatti, però sì che a te ti farà meglio di lui. E chi lo sa, boh. Poi quando arrivi a Pascoli, ti vai a montarla sul tetto, ce l'avevo un altro giorno. Un'antenna, cos'è che avevo? Un'antenna di macchina, forse. Non ho mai avuto problemi. L'ho messa sul tetto, è la stessa cosa. La stessa cosa, perché se gli impianti TV sono fatti bene, non disturbi, capito? Se invece sono fatti a culo di scimmia, come questo, allora sono problemi sui. Tu qua che un bel modetto accanto a me. Oh, antenne vecchi? Sì. E allora farò tibirà, rimane di uscì. Tanto per fare due chiacchiere, già va bene. Sì, un paio di antenne sono nuove, la mia è quella di un'altra signora. A volte, se sono su, a volte devo sistemata lì. Controllo qualche cavo che c'è verso male, glielo sistemo. Ma infatti, cioè, se c'è un problema se ne discute, si cerca di trovare un compromesso, invece lì è proprio negozio. Io ho convinto che con digitale magari questi problemi fossero finiti, invece ci sono ancora. No, se l'antenna ricevente è messa male, non c'è digitale che tenga, fra. Anzi, gli squadretta gli va via tutta l'immagine, gli squadretta. Ancora peggio, poi questi televisori di ultima generazione hanno il digitale incorporato, capito? E quindi invece col digitale esterno sembra che non, insomma, a disturbare è più difficile. Non lo so. Vabbè, e cosa ci vuoi fare? Prima magari sentivi un po' di modulazione, basta, un po' di radio insieme all'audio del televisore. Allora che non è proprio attaccato, gli facevi le righe. No, le uscite. Prima facevamo le righe, mi pare. Prima c'è le righe, va. Se qualcosa schiacci, sparisce l'immagine pure. Tutto nero. Sì. Una volta stavo provando la prefigurazione che ho io, l'FL 2100. Aggiunto un fruscio, oltre un kilowatt, si è sentita Anna. E cosa è stato? Danno è fatto, no? No, c'è trovato la TV. Allucinante. Ed ero in 10 metri, mi sembra. Adesso mi consiglio, in 10 o 20. Capito? Forse ero in 10 metri, ho 28 o qualcosa. Stavo così provando, per quante volte erano in 10 metri. Ho fatto un fischio, ci sono il wattmetro a più di un kilowatt. Si è azzerato il televisore, figura di tu. Non conviene, no? Io vado in campagna giù, dai miei, da. C'era quel giambo aristocrate, ti ricordi? E vediamo, lo ricordo, sì. Mia cugina mi sentiva anche dentro di topo, dentro le lampadine, la lavatrice. I valvolari, niente valvole, maledetto. L'armonica che te la caccia, quelli transistorizzati, sembra che siano più selettivi. Non lo so, questo è autoaccordante, però non so se caccia spurie, sicuramente sì, un kilowatt abbondante. Infatti io quando lo uso lo metto sempre a 50 watt, lo tengo sempre intorno ai 500, 550, 450. Che va bene, capite? Se c'è propagazione è ottimo, va bene anche così, non c'è bisogno di mettere la manetta. Io l'ho provato, c'era un tipo vicino a Roma, c'era un po' di propagazione locale, e mi sentiva bene. Addirittura mi ha sentito anche senza scarpetta, poi mi ha detto se c'è qualcosa attacco, l'ho attaccata e mi ha detto che stava arrivando bene, mi ha dato segnale di 7-8. E vabbè, questi sono lineari professionali, questo della IESO 3200B, questo fa 10, 15, 20, 40, 80 metri, capito, è per HF, c'ha due tubi 572B, mi pare che siano, ci vuole le belle patch, nuovo, funziona perfettamente, solo che lo uso molto, molto poco, diciamo quasi niente, ogni tanto lo tengo acceso proprio per far scaldare le valvole, ma l'ho usato se no 4-5 volte da quando ce l'ho, capito? Primo periodo, poi basta, è sempre lì che me lo guardo, anche quelli sono debuttati. Ma devi accordare o no? No, quando mi esce, dove? In 40 metri già accordato, c'è la sua posizione, tu la accendi, lasci scaldare, va in operate e lui è già accordato. Se tu ti sposti di banda, chiaramente devi banda devi fare l'accordo, però se lo usi per dire 40, lo puoi lasciare in 40, non c'è bisogno di accordare niente. Piccoli spostamenti di frequenza non succede niente, dai. No, lui ha accordato da 7.000 per dire 70 sino a 7.170, no, non cambia l'accordo. Se però ti sposti dai 40 ai 20 è chiaro che devi rifare l'accordo. C'è le classiche manopole 2 o com'è? Fino a 3. Due strumenti, c'è anche la tensione della roba, c'è il print, il nod e il band. Cambio di banda, capito? Io per la cavatura classica, anche un giappo c'era due e l'ho andato del plate. Sì, questo c'ha due strumenti, ti segna anche l'uscita delle stazionarie sulla precipitazione in antenna, no? Una bella bestia, bello massiccio, pesante, è nuovo, io ho tolto io la pellicola trasparente, l'ho preso usato, ma ho usato bene, capito? Ma no, sono al 100%, va bene. Quale? 2100 che c'ho io, la FN 2100 della IES. Io ho mangiato qualcosina, insalata, mi tanto per rimanere belli freschi, e te lo dico lì, il TL922. con quello quando ero andato piano, vabbè, quella è un'altra cosa, no, non c'ha le 572B come valvola, il 922 c'ha le 3500Z, sono due fondi di bottiglia, mi sugge. Avevo voluto fare la vecchietta quando ero su, avevo 4 kW e mezzo di pressione, per un 3 kW non ce la faccio, invece questo ce la fa anche con 3 kW, vabbè, anche qua c'ho 4,5, però ce la fa benissimo. No, l'altro l'altro giorno ho tenuto 7-8 ore acceso in trasmissione, quindi battaglia mi è arrivato, allora in lire mi è arrivato 350 o 370 euro, 370.000 lire di luce. Valvole, più chiaro, io avevo bruciato le valvole del Giampo. Ma se bruci quelle del TL costano 250 euro l'una, non è buccia di gioco che non fa. Non so che fine abbia fatto, poi ne era uno anche più piccolo, sempre uguale, della CTE, però mi sembra che dava sui 100 watt. Lo Speedy, CTE, lo Speedy ci avevi. Bravo, mi sembra che doveva perderlo ancora quello lì, Lo Speedy della CTE li ha avuti tutti io quelli, però fuori non... Non servono a niente, capito? Perlomeno quello HF deve avere un amplificatore HF, se pure usi 27 deve avere un amplificatore Pro 27. Io anche ho anche Pro 27 grande, ma non lo uso perché usando questo tipo di radio usa a fare. C'è da 0 a 100 watt. sono bello fresco in testa, però mi sono tagliato i capelli con la macchinetta. Pensa che i capelli, dove c'è la chierica, chiamiamolo la sommità della testa, erano talmente fitti che certe volte la macchinetta si bloccava, lo sai, c'erano proprio folti, folti, folti i capelli. Adesso ci ho dato un bel taglio e ce li ho corti, belli corti, e senti meglio l'aria, respirai più la testa. Se ci fermo la macchinetta bisogna cambiarla allora. No, ma me lo fa solo perché certe volte sono talmente folti, andrebbero, sai, un po' sfilciati col pettine prima. Adesso sono capelli corti, ma sto molto molto meglio. Non mi piace sta zazzera, questo malloppo, capito? Ok, il Galaxy 1000 era bello della CTE anche come lineare, Galaxy 1000, te lo ricordi? Io no. Claudio, è roba anni 80 era, eh? Non lo so. E poi la modulazione. Le cifre deve aumentare la modulazione, si risulta? Sì, quello che apparecchio è. Io l'ho fatto su. Dunque, sui vari superstar. No, moderni, molto moderni, le ultime versioni. Poi l'ho fatto sul HR5L5, sul 7009, sul 9009, su quello omologato, e tutti li ho migliorati, tranne uno è omologato di 3009, quindi non l'ho toccato. Questo è un samurai, lo conosci? Il samurai, aspetta com'era, Excalibur Samurai, sì, l'ho avuto, quello cromato con le cifre verdi, guarda, questo è uguale al samurai, è identico, questo sto usando adesso, è identico al samurai, però si chiama Super Jobix 2000. In teoria è con frequentimetro al centro, poi lo smetterà a sinistra, è tutto sì, sì, guarda, l'ho avuto il samurai tanti anni fa, però era manomesso, in AM usciva cupo, era stato toccato malamente, questo adesso è lo stesso, però dentro è moderno, sempre pezzi normali, cioè componenti normali, però le versioni moderne di questa scheda madre, ed è un bijou. Cioè trasmette bene, esce molto bene, però qua i trimmer hanno posizioni diverse, come hai parlato di VR1, VR2, qua è diverso, qua mi pare sia VR14 o una cosa del genere. Non lo so, questo c'è un sacco di lavorazioni, adesso ce ne saranno 7-8 mi sembra di quelli metano, progetto VR, poi c'è quelli diciamo tipo grattacielo, che non so cosa c'è, ma quelli sempre regolazioni. No, quelle non vanno toccate, quelle sono le medie frequenze. Non fatti non ho toccato, solo questi trimmer ho toccato. Però non sapevo quale fosse quello della modulazione, per provare a aumentarlo, cosa mi consigli? Purtroppo quel baracchino è datato, non mi ricordo quali erano le regolazioni. Questo vabbè, l'ho saputo perché era proprio in produzione fino a due o tre anni fa. Più moderno dentro, ci sono tutti gli schemi su internet, molto recente. Per il tuo bisognerebbe fare una bella ricerca su internet e vedere se c'è le regolazioni, quali sono le regolazioni, capito? Non le ho trovate, ci sono molti apparati molto simili e sembrano uguali all'interno comunque. Eia, però bisogna essere sicuri, sai, prima di toccare qualcosa, non dico di vitale, perché bene o male i trimmer qua hanno funzioni comuni, danno non credo che ne fai. Lo stesso c'ha lo smitter cifre verdi, no? Con quei segmenti spartani. A me era piaciuto molto il samurai. Tant'è che poi quando l'hanno fatto in chiave moderna, l'ho comprato tipo 4 anni fa massimo, l'ho ricomprato, sotto diverso nome, però è identico. Anche l'altro che c'è in macchina, il Super Galaxy, cambiano i colori ma è molto simile, esce con più watt però l'altro, il Super Galaxy. Eia, a avrà doppio finale o finale spinto. Questo ha un finale solo MOSFET, però MOSFET rispetto al tuo che dovrebbe avere un, forse un 1969. Ma io ne vedo due dentro. Due? Che sia il prefinale uno, no? Può darsi pure che ne abbia due, può darsi pure, questo lo puoi spingere 10 watt M e 30 SSB, per dire, ma io l'ho voluto lasciare 4 watt AM 12 banda laterale per pilotare meglio i linearetti. Oh, adesso qua arrivo a 15 modulati. Raga, io vado a portare il cane, se ci siete a dopo. Ok. Ehi, Claudio, dai, non so se ci sarò dopo, dai. Volevo... vabbè, volevo far roba qua, internet. Volevo cercare anch'io su Roger K, magari, se hanno lo schema del Samurai, dell'Excalibur Samurai. Pensa che mi è rimasta solo la scatola di quell'apparecchio, se ce l'ho ancora, non mi ricordo se ce l'ho ancora, però ce l'avevo. Fino a pochissimo tempo fa ce l'avevo ancora. Beh, io non credo di averla più, no, ho perso tutto. Sai cosa è importante di quegli apparecchi? Lo schema elettrico, quello è... bisogna conservarlo con più cura. Da me non so nemmeno se c'era, l'avevo comprato usato, però usciva cupo in M, ripeto, l'hanno maneggiato, l'hanno manomesso e usciva più cupo in M. Mi ricordo che mi avevano fatto storie, mi avevano fatto storie per quel baracchino, perché c'era uno che lo voleva, no? Ed era parente della persona che ce l'aveva, no? Ma non aveva soldi, io avevo soldi, giustamente l'ho comprato. Questo che lo voleva, quando ha saputo l'avevo comprato, ha minacciato azioni legali dicendo che quello era il suo, che aveva il numero di serie, che volendo faceva la denuncia. Io ho detto, guarda, io l'ho pagato moneta sonante che cantante, e poi quello che me l'ha venduto ha santarato la persona, l'ha santarata male perché era un parente, capito, un zio o cugino o una cosa del genere, capito, le pretese delle persone, non hanno soldi e vantano diritti sugli apparati. E di chi era loro poi l'apparato? E non me lo ricordo manco più il nome. Io mi ricordo un tipo che ce l'aveva. Abitava, come si chiama, scendendo verso Caniga, a sinistra dove c'è la concessionaria di chi è? Fares, no, non mi ricordo, Auto A. E chi ci abitava lì? Modigliani? Boh, non lo so. No, abitava dalle mie parti, questo, ma non mi ricordo il nome. Lo dicevo sempre, adesso non mi viene. E mi ricordo come si chiamava Stefano, forse. Ah, no, questo è Sandro, il cognome, bah, il nominativo non mi ricordo. Sì, avevo fatto storie, questo parente dicendo lo voleva lui, che c'aveva carta a bollo, che c'aveva numero di serie, se lo sarà preso in precedenza. Cioè questo non aveva soldi ma voleva l'apparato. E se non i soldi, io che avevo i soldi l'ho comprato sull'unghia lì, no, soldi, apparato. Capito che pretese che aveva la gente, dice quello è mio, quello me l'aveva, me lo dovevo comprare io, me ne affutti, ha pagato io, me lo sono preso io. Mi ricordo anche il nominativo, si chiamava Stefano Principe Azzurro, e modulava da quelle parti lì, dove ti ho detto, un po' più giù di Falcone praticamente, dai. Ah, Stefano, sì, Stefano è un amico, parla con noi spesso, quando viene da Olbia parla con noi, sì. Ah, non sapevo che l'avesse avuto anche lui, non lo sapevo. Sempre ti parlo di 30 anni fa, non lo so. Ehi, già lo credo. Io l'ho conosciuto Stefano Roba 30 anni fa. Oh, io sono entrato nell'84, estate dell'84. Con un portatile, indovina che ho beccato per primo, Falcone. Arrivava dappertutto, ma adesso c'era un segnalone, guarda, lo sentivo dappertutto. E allora, guarda, ogni ragazzino nuovo che entrava ci passava sempre lui, Falconetto, l'intercettava al volo, capito? Dice, chi sei? E come sei fisicamente? Ascolta, ma ti posso fare un gioco? Ma sei peloso nelle gambe? E attaccava la solita tiritera, no? Il battesimo glielo dava lui sempre. Teia. Era un portatile con quegli antennoni lunghi 1,20 m, 1,30 m. era un Great tre canali, bello, mi sembrava un radiotelefono militare, colore grigio, mi, bello era. Andava bene, poi sparava forte, da dentro casa mi ascoltavo a Porta Canica, è tutto dire, con i portatili di adesso non ti ascoltano nemmeno a 200 metri. Anch'io ho avuto dei portatili, uno era insieme a tre canali, però quando li ho comprati avevano solo un canale, il numero uno, quindi avevo affittato i quarti per avere tre canali, e poi il canale te li sceglievi tu, in base ai quarti che compravi, capito? Sì, esatto. Anche il mio aveva 3 watt, 3 canali, però quarzato era solo uno, ed era l'11, era sempre l'11. E i quarzi all'epoca li vendeva a Scarpa, qua vicino a me, io sono a fianco a Scarpa, mi, a 100 metri, 50 metri, capito? Vendeva i quarzi dei canali. E ci compravamo i canali più usati, tipo il 5, che ne so, il 23. Bravo, invece avevo preso il 23, me lo ricordo. Che c'era anche un mio amico, non so se ti ricordi, Isidoro di Campanella, che se lo metteva sempre sul 23. Isidoro? Da Campanella, sì, Isidoro. Sì, me lo ricordo Isidoro. Parlava sempre con ragazze lui, no? Cercava sempre di catturare. Bei tempi, portatili ha avuto quei tre canali, due una coppia, poi ha avuto un Inuit 6 canali con un bellissimo Smith centrale, poi il più bello era stato un 80 canali, un portatile 80 canali col telaio in alluminio preso fuso, antennone sempre da 1,20 m, quindi un ottavo d'onda. E questo aveva Smitter, anche se piccolo, l'attacco per il microfono a 4 poli, il microfono vero, no? come i baracchini, l'attacco per l'alimentazione esterna, l'attacco per l'antenna esterna, l'attacco per le cuffie, tutto aveva, cosa non aveva. E un pirla me l'ha bruciato. Io l'ho avuto, però mi ricordo 40, io era 40 canali, era un Lafayette, sempre una struttura come chiedi, un alluminio, un antennone, con le... L'attacco dell'antenna però era, ci voleva l'adattatore, mi sembra che era col jack da 2, se non sbaglio, da 2 pin. Sì, sì, tu hai avuto il Lafayette Excalibur 40, io ho avuto l'Excalibur 80 che aveva 40 normali e 40 sotto. Poi ci serve il 120 che aveva 40 canali ma era MFM, quello era il più bel portatile mai avuto. Bellissimo, me lo ricordo ancora. Aveva i canali li disegnava in rosso, mi ricordo, se non sbaglio, sì. Sì, esatto. Esatto, c'era lo smitterino per le batterie, per il segnale, anche se era microscopico, c'era l'attacco frontale a 4 poli per il microfono, era un bijou quell'apparato. E un babbeo me l'ha bruciato, facendo una modifica me l'ha bruciato di fronte a me, ho visto uscire il fumo. Che peccato, io non ricordo che fine abbia fatto, poi ho avuto anche un Tokai, ma era ancora più vecchio. Sì, Tokai, sì. Io l'Excalibur l'avevo comprato da Mario Notari, mi pare, forse, oppure da Cineradio, non me ne ricordo, la verità non me lo ricordo. Era il più bello portatile che avessi mai avuto, il più versatile. Per l'antenna praticamente serviva un adattatore da PL a jack, a mono 3,5B, come una presa cuffia mono, da 3,5 mm. No, 3,5, è quello piccolo, tipo cuffie, però mono. Bello era, guarda, bello, bello, bello. Maledetto il giorno che l'ho dato in mano a quella persona. Sì, adesso avevo la 5, però a due pine, due poli, dai. E io avevo anche quella lattatore lì, perché a volte lo usavo con l'antenna esterna. No, era un bel apparecchio. Eia, molto bello, in alluminio, caspita, quello valeva. Quello l'ho pianto a lungo, quell'apparecchio sì che l'ho pianto. Pazienza, era PLL, niente quarzi, era PLL quello. Purtroppo non fanno portatilini ridicoli adesso con antenne altrettanto ridicole che non hanno portata, dai, per carità, lasciamo stare. Invece mi è rimasto, dall'86 mi è rimasto il Maxcom 7, se quei portatili portate lì con kit emergenza radio, ti davano la valigetta, il portatile, la base magnetica, l'attacco accendi sigari, non so se è presente, poi aveva anche una custodia per le batterie. Mi ricorda qualcosa, non mi consente. Guarda, di colore era bianco, lo chassis bianco con la mascherina nera e il tasto, il PTT largo, largo, grande, rosso. No, sicuramente non l'avevo mai visto, non l'ho sentito nominare. Eia, quello era il kit classico tipo SOS, emergenza, all'epoca, quando non esistevano i cellulari potevi chiedere il soccorso sul 9 se avevi una necessità. Quello mi è rimasto, vedi? Quella è una bella bestiolina, ha una radio bella acuta e squillante, è un bijou quell'apparato. Però guarda, la Fayette Excalibur è stata una grave perdita, te lo devo dire. Mi è rimasto nel cuore. Sì, sì, sì, perché non troverai mai i portatili a quei livelli. Quelli erano il massimo livello che si poteva avere. Poi col microfono normale esterno usciva ancora meglio. Peccato che all'epoca esistessero solo batterie ricaricabili da 500 mAh, cioè ti durava mezz'ora e poi si scaricava. Adesso trovi batterie da 2000, 2002, 2005. Sarebbe durato molto, ma molto, ma molto di più. Non mi ricordo che batterie montava, perché, ma quelle normali. Sì, batterie stilo, ne montava 8 o 10 mi pare addirittura. Minimo 10. Sì, sì, 10. Aveva delle cannucce di plastica per alloggiare meglio le batterie, mi ricordo. Guarda, mamma mia, bello, bello. Vabbè, pazienza, pazienza. Hai provato a cercarlo, se esiste ancora qualche modello di no? Tutta roba usata, però vecchia di 30 anni, ormai non conviene comprarne perché magari hanno difetti, non mi fido più a comprarne così vetusti. Guarda, io l'avrei tenuto come una reliquia quello là, sarebbe stato funzionante tutt'oggi, come funziona il Maxcom 7. Pazienza, peggio per me. Smanettando, quello che aveva era un problema. L'ho dato a un presunto tecnico per fare una piccola modifica, per quando inserivi il caricabatteria per le batterie ricaricabili. Lui cosa fa? Sbaglia, inverte i poli, ho visto uscire il fumo. E non hai potuto più riparare. No, no, non c'erano i pezzi, era roba americana quella, provenienza americana, Non era nemmeno omologato, mi pare. Purtroppo non. Poi non c'era nemmeno la volontà di metterlo a posto, diciamo. Anche trovando i pezzi non c'era la volontà in loco a Sassari di aggiustarlo. Detto papale papale. Comunque se non sbaglio anche questo è stato acquistato lì da Notari. Vicino a Benevento, da così era, sì. Sì, sì, in Viale Mameli. Io abitavo quasi di fronte nel 84, poi nel 92 ho cambiato casa, sono venuto più su, una via più su. Sì, mi ricordo, è stato acquistato proprio lì. Guarda, se l'hai comprato tu lì, l'ho comprato anch'io lì. Il prezzo era intorno ai 200 euro, credo, non me lo ricordo con precisione, sono passati troppi anni. E avevo roba bella, sai quanta roba ci ho comprato lì? Poi con i Kenwood Mario si è fatto d'oro, d'oro si è fatto, perché era, mi pare, l'unico a Sassari che li vendeva. Io comunque non parlavo del Lafayette, del portatile, parlo di questo Samurai. Il Lafayette me l'avevano regalato per qualche cosa, non so, forse avevo prestato un apparecchio e me l'hanno bruciato, e lui in cambio mi aveva dato questo apparato con il Tokai. Ah, ecco, sì, ho capito. Sì, vendeva anche baracchini omologati, l'FM500S per esempio, un portatile Intec che avevo preso con un antennone lungo, lo stesso, che però si è rotta l'antenna purtroppo, anche lì non conviene più aggiustarne, poi l'antenna esterna faceva scariche. O per meglio dire, la presa per l'antenna esterna, che era una RCA, ha cominciato a fare scariche, lì alla fine mi scoccio io e non è giusto nemmeno. Poi quando le cose non vanno bene anche perché, ripeto, non è che non c'è da parte mia la volontà di aggiustarle, da parte dei tecnici dell'epoca non c'è la volontà di mettere a posto gli apparecchi, ti diceva non si può aggiustare, non si trovano i pezzi, alla fine non... ti invogliavano a non aggiustarne, capito? Anche se cercavi una banale antenna telescopica delle stesse dimensioni, non si trovava, e ti dicevano è difficile, non si trova, anche i venditori non hanno voglia, e quindi lasciavo stare. E oggi chi c'è in grado di fare tipo un riallineamento, una messa a punto a questi apparati? Guarda, avendo lo schema elettrico Vittorio Giove, Vittorio Branca, il centro sono in via Londra. Conosco il socio, dai, lavora con lui. E anche se lui è già operato di lavoro per la roba sua, Sony, no, tutte quelle marche che assistono, quindi per i baracchini ha poco tempo, magari aspetti un po', però magari te lo fa, perché il resto chi lo fa? Pomponio li fa, ma insomma ti devi un po' fidare di quello che riesci a recuperare. Ma voglio vedere il fumo anch'io. No, con Pomponio vedi proprio le fiammate alte. C'è un video e si vede un tipo che sta smanettando per prendere fuoco. Eia. No, Antonello, guarda, nel suo piccolo qualcosa sa fare, mi ha sempre aiutato quando avevo bisogno. Vabbè, vediamo che ore sono. Quasi quasi andrei da, poi se entra Claudio al limite aspetti un po', dovrebbe rientrare lui. E c'è caldo qua, nonostante il ventilatore a soffitto percepisco il caldo. Conta che adesso sono vestito, calzone e maglietta. Io oggi a casa sono stato bene in mutande bon, senza nemmeno pantaloncini. Entro fuori, ma ancora c'è più caldo fuori che dentro, quindi ancora non apro. Sì, invece mamma, siccome è intelligente lì, apre tutto e il caldo entra in casa. Ma quando mai? Quando mai? Io invece nella mia cameretta non ho aperto nulla ed è la camera più fresca di tutta la casa. E vai, cuocuomane, vai. Ciao. Buonasera ragazzi, buonasera. Mi adesso ho acceso, adesso entrano quasi via per andare a cena. Sì, stavo parlando di smanettare, oggi ho smanettato un po' questo apparato, quindi ho regolato un po' di trimmer. Lascia bene di radio, va bene, a voi, arrivi sparato qua. Mi ha aumentato la ricezione perché prima mi erano tutti bassi, adesso vedi anche tu arrivi più forte. Sia della M che della banda laterale. Poi ho aumentato un po' anche la potenza. Dai 7 watt l'ho portato quasi a doppio. La radio va bene, perfetta. Per essere anche vicino a me, siamo vicini, non distorce niente. Vabbè, avanti Marco, dai. Tanto sto per andare via. Eia, ciao Lu, dai, ben entrato. Oh mi fra, Luca è bravino invece in cellulari, in computer, capito? Ci ha fatto la mano, gli manca solo la stazione saldante all'aria calda ed è completo, vero Lu? E ce l'ho già io quella, l'ho già comprata, sì, guarda che un certo giorno, vabbè, mi vergogno a dirlo, però alla fine non era dentro la mondetta, era buttato lì vicino al cassonetto, l'ho agganciato, perché ho visto il case nuovo, e poi i case a me li chiedono, sai, servono per autocostruirsi un alimentatore, poi non so, comunque mi richiedono. Ho provato, ci ho messo l'hard disk in questo computer, ci ho aggiunto la RAM, gli ho dato la pulita, gli ho pulito il processore, gli ho cambiato la pasta di raffreddamento. Credetemi che ci ho messo un po' di pesi sopra, ci sono soldi, perché alla fine comunque funziona benissimo, ed è un Acer Marco, funziona benissimo, ci ho messo un hard disk da 320, 2 giga di RAM, ed è, guarda, se lo vedi è nuovo. Buono, ottimo Lu, ottimo. Guarda che anche Antonello Pomponio trova delle occasioni, mi trova roba nuova buttata, roba elettronica, telefoni cordless, ogni tanto trova roba buona. E quindi, capito, rimette a posto roba che la gente ha buttato perché magari sono ricchi, capito, se ne ha futti a loro. Lo buttano, dice se lo compriamo nuovo. Sì, ho caldo, sono vestito ma ho caldo. Io adesso mi metto a culo nudo. Vabbè, io c'ho mamma, se no starei nudo a casa, mi nudo, senza un cane anche. C'è caldo, dice caldo. E pesce dice che scalderà ancora tra oggi, domani e dopodomani. Adesso non esageriamo, però. Io chiedo una cosa, Mattia. Lu, il trasformatore che si attende, l'alimentatore di un computer, che potenza ha? Ma di Amper dici? Potrebbe alimentare un apparato, un baracchino. Guarda, io sto usando quello adesso, ne ho uno, me l'ho autocostruito io, gli ho messo le, diciamo, gli ingressi, quelli con le bananine, no? Rosso e nero, ma 2 ampere, in base non ce la fa, questo 2 ampere non di più. Allora poco, qua ci vogliono almeno 10 ampere. Ma ce ne sono anche grossi, che reggono più potenza. Guarda, io qualche alimentatore ce l'ho su cui te lo do, me li hanno regalati, sono da testare, non so se funzionano, c'è la fettola dentro, ma un amico mi ha dato un po' di quelli un po' vecchiotti, non di quelli che hanno, sono con gli attacchi vecchi, diciamo, dai. Ed è buono, come, cioè io li uso, per esempio sto usando uno, me l'ha regalato Luca, e va, gli ho messo due ventole, sono illuminate pure. E niente, se ti serve mi fai sapere, perché un paio li ho già dati. Quanti ampere hanno? Penso 2, perché se io vado in bagno mi fa questo rumore, no? La colonia fa così, fa, non ce la fa. Io dice ne c'è una, me la danno una trentina di ampere. 30 ampere, ci sono su eBay, controlla, costano poco, 20 euro, 15 euro. Sono? Fai una ventina di euro, ci sono, senza cose, senza strumenti però, Ma che cosa dico io, da 10 ampere non ne ha strumenti, Ci sono, basta andare su switching, ma anche mi sa che c'erano dei cinesi di, se non sbaglio, lì a, di fronte a molto convenienza, c'è un coso di cinese lì, vai lì. Non so neanche dove sia questo modo conveniente, ancora non l'ho visto. Guarda, modo conveniente rimane praticamente dove c'è la Ushan, la via di Ushan, poi c'è la, tu una volta che arrivi lì allo stop c'è la via per andare che ti porta alla piazzetta, giri a destra, poi scende dove c'è il ponte lì, c'è un ponte che ti porta poi per andare al mercato civico, bandiera gialla, quella zona lì. Più o meno, dai. Quella zona lì, sì. Lì, se no su eBay, se non ce l'hanno per comprare, lo dici a me, mi fai la ricarica, te lo ordino io, non è un problema, ma ce ne sono tanti, fate un giro, c'è il computer, da un'occhiata, e ce ne sono tanti, ce ne sono anche da 50, mi sa. Ma 50 mi sembra esagerato, no? Ah, guarda, io ho fatto 2 ampere, va benissimo, poi ne ho uno da 30, da 25 me l'aveva regalato Claudio, solo che quello ha un problema, cioè funziona, che quando sta un periodo fermo, ti dai gli amper giusti e allora bisogna toccare il trimerino e lui sale, però funziona, è di quelli, non è switching. Infatti bisogna trovare anche, cioè, avere fortuna perché mai se lo mandano e non va bene. No, che vanno benissimo, fra, prova, fate un giro, chiedi, puoi anche chiedere al tipo, vai su eBay un attimino, c'è il numero, lo chiami e ti dici le informazioni, vedrai che funziona. Ma, mi sa che c'è la Massimiliano, basta parlare con lui, Bulldozer, qualcuno se l'ha comprato, perché se ne ha autocostruito uno lui, gli ho fatto un case di computer, se ne ha fatto uno da 120 ampere mi sa. Minchia! Sì, li ha copiati, gliel'ha fatto un suo amico, se ne ha preso 3 o 4, li ha copiati e ne è uscito un alimentatore da 120 ampere. Buono, buono. Vabbè dai ragazzi, io vi saluto che porto il cane e me ne vado a cenare. E non mi pare io durare a casa con cane, sono stanco. Da ieri al mare mi sono anche bruciato. Davanti no, ho messo la protezione, dietro non me l'ho messa, non me ne sono manco accorto. Infatti mi ha detto la mia ragazza, guarda lui si sì, rosso rosso. Boh, io non mi vedevo rosso, poi avevo fatto la doccia, mamma mia, cazzo di tu, arrostito mi sono luci. E sono un po' addolori anche. Il sole fa tanto se non c'è la protezione. Io invece ero sempre stato un bellone. E voi ti becca lo stesso del riflesso. Comunque dai, buona serata e una buona cena. Avanti Margherita. Ehi, ciao Lu, dai. Portati sempre creme filtro solare, se no ti crepa. E dove state andando al mare? Di bello. Io alla Marina di Sorso, guardo da lì. Sto bene, non posso lamentare. Ogni tanto mi faccio qualche arsella, così, ma lo faccio per ammazzare il tempo, poi le regalo un po', così un pugno le faccio. Sta benissimo. Sì, no, la protezione la portiamo sempre, è che me ne sono fregato un po' io. E un po' mi sono ustionato, dai. Speriamo che non mi vengano, come mi è successo anni fa, le punture, mamma mia, cosa ho passato quella domenica di pomeriggio, di sera tardi. Ci ho fatto anche a pronto soccorso. E sai che ho messo la tipa? Siccome mi avevo messo la pomata, quella a granellini, no? Adesso non mi ricordo il nome. Quando sono andato al pronto soccorso mi sono levato la maglietta, la tipa mi fa l'infermiera, ma te l'hai fatta la doccia? Ho brutta, puntini puntini, non mi è uscito. E certo come l'ho fatta la doccia, mi sono messo una pomata per calmare il dolore. Cioè, ma così da disso? Ma tipo non mi porto la doccia, uno che va al mare non si fa la doccia. Oh, yeah. E poi ti lascio nei segni. Io a volte, in qualche viaggio che ho fatto con un paio di casi, ho ancora i segni nelle braccia, le cicatrici e delle bruciature. Infatti, la prossima volta, infatti quando con la maglietta, perché sono al sole mi fa male, mi fa un bel male, infatti ci sto poche niente, sto all'ombra. Domenica, dato che sono in piscina, ci passo due volte a mettermi la protezione. Vabbè, dai, ciao ragazzi, buon proseguimento. Ehi, Alu, ehi, io ero, quando è ieri, al mare, e l'acqua era, pipì era, bella calda, un bijou, guarda. Oggi no, perché è troppo caldo, dai. Ehi, ciao Lu, sentiamo, io quasi vado a ascoltare un telegiornale, dai, visto che oggi sono tutto il giorno senza, così, alla selvaggia, dai. Mi ascolto un telegiornale, mi riposo e mi spoglio soprattutto, che sì, questo è meglio. Ehi, riprendi Franco, va. Giusto, già sono sempre franco. No, io invece ieri ero a Baviera, invece domenica scorsa ero a Tinnari, non so se sai dov'è, che è un posto bellissimo, guarda. No, non ce l'ho Tinnari, magari l'ho già sentito, ma non so dove sia. Guarda, la strada è... Sono arrivato un po' in strada, ma... con paura di fare danno anche. Ehi, guarda, una volta con mio cugino siamo usciti con la 1, siamo andati in un punto dove a malapena passava il fuoristrada. Beh, risultato che la macchina si è rimasta piegata di tre quarti con la ruota proprio finita in un fosso. Ho detto, qua la macchina non la recupero più. Se no che un fuoristrada ci ha agganciati, ci ha tirati fuori proprio di peso, perché era proprio un, non mi ricordo che zona fosse, andando per Cosciadona, credo, no, o giù di lì. Ma guarda, proprio un percorso per condannati a morte, a malapena ci passava il fuoristrada, noi due pazzi passando lì, Sì, lì a fine ci sono tre o quattro macchine abbandonate, sicuramente non sono riusciti più a salire, alcune addirittura anche fuori pista. Figurati. Poi della stessa giornata, no? Non riuscivamo a salire una collinetta perché la sabbia ci faceva slittare. Abbiamo provato una o due volte niente, allora sono tornato molto indietro, dove era pianeggiante, ho preso velocità e un poco po' di velocità siamo riusciti a risalire. Ma guarda, era un percorso da incubo, mai più, non farò più fesserie del genere. No, io mi fido solo se c'è un fuori strada, ma a volte ho... non supero il mio limite, magari con un altro amico, magari che siamo più di esperienza, in due ti fini di più, perché uno a terra a volte ti fa passare con le gomme dove vuole lui e non ti rovini la macchina, se no a volte fai danno. Eia, e poi diventa tipo camel trophy, no? Diventa impegnativo. È lo stesso, guarda, col padre di una mia ex ragazza. Andando verso Portoferro ci ha fatto passare in punti dove la strada era veramente sconnessa, la macchina era proprio era lì per ribaltarsi di lato. Si è voluta tutta la sua bravura per non capottare, per non ribaltare. Allucinante, mai più, guarda. Sì, no, ci vediamo. Ripeto, bisogna sempre stare attenti a non superare i gradi di qui. C'è qualcuno che chiama sotto o una portante c'è? No, io non chiamo nessuno. No, c'è una portante. Una portante forse di propagazione. Chi è che vuole entrare? Ho provato a cambiare canale, non cambia nulla, quindi non sento la portante io. E io? No, vabbè, niente di preoccupante. Ok, fra, io sono le 8 quasi, dai, mi guardo un telegiornale. Saluta Claudio se rientra. Lascio comunque tutto acceso, non si sa mai. Se il telegiornale non mi scoccia, magari torno per un saluto, ok? Se no, ritieniti salutato, ok? Buona serata, buon tutto, e ci sentiamo alle prossime, immagino anche domani. Bene, dai, se tutto coincide ci sentiamo alle prossime. Buona serata anche a te. Buon telegiornale, insomma, buon tutto. Anch'io adesso mi... vado, mi preparo qualcosa da mangiare, perché tra un po' arriva anche mio figlio, e quindi mangeremo assieme, dai. A domani, o più tardi, vediamo. E io, ciao ciao, buona serata. Grazie, ciao ciao.